21, sono le 21, Maurizio. Esatto, sono le 21:01 di questo mercoledì 29 maggio 2013. Buonasera a tutti da Blu Radio Veneto, da Maurizio e Gilles. E questa sera una serata veramente particolare, un ospite veramente d'eccezione, Maurizio, possiamo dirlo, no? Certamente, assolutamente d'eccezione. Buonasera Enrico Ruggeri. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Enrico e benvenuto a Blu Radio Veneto. Benvenuto grazie, da ragazzi. Tutto lo staff e anche da Alberto Prisco che ha organizzato questa grazie. Serata. Enrico, io sono molto soddisfatto quando ho visto e ho sentito questa cosa, cioè hai fatto un compact, un concept album bellissimo, non si faceva dal 1970, io sono un vecchio rockettaro. Ah, ecco, allora... sono soddisfattissimo. Sì, allora ci capiamo al volo. Certamente, sono un vecchio rockettaro, un concept album non si faceva da tanti anni e tu sei stato coraggioso, hai fatto un disco tanto tosto, belle chitarre taglienti, belle chitarre rock, con pezzi con un momento di prog anche, Enrico, secondo me. Ma sì, il presidente della Sony, mio amico, l'ha sentito e mi ha dato la definizione perfetta, perché mi ha detto è un album meravigliosamente fuori moda. Perfetto. E io sono molto orgoglioso di questo, sono orgoglioso di aver fatto un concept, di averlo registrato in una maniera che non è mai stata usata per i dischi, cioè io ho composto i pezzi nell'ordine in cui voi li vedete, certo, e li ho registrati in quell'ordine lì, finendo ogni pezzo compreso il messaggio. Oggi che tutti ottimizzano, fanno prima tutte le batterie, poi i bassi, poi le chitarre, io invece mano a mano facevo la preproduzione, chiamavo i musicisti, suonavo il pezzo, lo cantavo, lo missavo e poi ricominciavo da capo. Quindi era come aprire 13 sessioni di 13 album. E però la cosa interessante, almeno per me e per te, che me l'hai detto, e grazie a Dio anche per qualcun altro, è il fatto che l'album racconta una storia. Esattamente, una storia importante. Hai rivisitato un romanzo di Mary Shelley, una scrittrice inglese che l'ha composto a circa 20 anni, era giovanissima. Esatto. Sì, che secondo me è andato forse addirittura al di là delle sue aspettative, ha fatto una cosa più di quello che voleva, perché è riuscita a centrare una serie di temi che sono gli stessi da 200 anni. Esatto. Già 200 anni fa era un tema molto importante, molto difficile da proporre, e è ancora valido adesso, chiaramente. Ma sì, in realtà io volevo scrivere un album concept sulla storia dell'uomo oggi, cioè a che livello è veramente l'uomo oggi, a che livello è il suo pensiero, la sua morale, ed era un po' che pensavo, avevo bisogno di una molla, e la molla me l'ha data a rileggere il libro di Mary Shelley, che è un libro che normalmente leggi quando hai 14 anni, e ci ho trovato una serie di argomenti che erano perfetti per quello che volevo dire, cioè raccontare la storia dell'uomo che oggi, per assecondare le sue ambizioni, è disposto a superare la morale, i confini dell'etica. Volevo raccontare la storia attualissima del fatto che l'uomo non si rassegna al tempo che passa, lo vediamo in giro, tra seni rifatti, parrucchini, botulino, Viagra, cioè tutti cercano soccorso alla scienza, cercano soccorso dalla scienza per in qualche modo ribellarsi alle leggi della natura. Poi perché volevo parlare di diversità, il mostro nasce buono e diventa cattivo nel momento in cui viene respinto dal contesto sociale che lo ospita, ma di diversità non solo diversità razziale, fisica, religiosa, eccetera, ma proprio diversità di pensiero. Io sono uno che crede nelle minoranze, vi sfido a trovare una grande idea che abbia cambiato il mondo che sia frutto di una maggioranza. Difficile. E quindi volevo dire questo, è una storia d'amore, d'odio, certo. Di amore che diventa odio, insomma c'era tutto quello che mi serviva. Possiamo definirla una rock opera? Sì, è una definizione che mi piace, perché già molti mi hanno fatto la domanda, ma non pensi che possa essere un musical, però il musical oggi è anche un pretesto per fare urlare i cantanti, no? Ci sono sempre prove molto muscolari nei musical. Quindi, se mi permettete la bestemmia, Frankenstein è molto più simile a Tommy che non a Notre Dame de Paris, per intenderci. Hai citato Tommy? Sì, ho citato il massimo. Il massimo di massimi, scusami se parlo del massimo di massimi, ma quando si parla di Tommy bisogna sempre alzarsi in piedi. Esatto, quindi l'obiettivo era la rock opera e non il musical. E poi c'è un romanzo. Esatto, stavamo arrivando dentro, a questo. Nella confezione c'è anche questo romanzo che si chiama L'uomo al centro del cerchio, che rilegge gli stessi temi 200 anni dopo. E qui il punto, cioè, che cosa ha fatto l'uomo in questi 200 anni? Come si è evoluto il suo pensiero? E la cosa bella è che sono 13 canzoni, 13 capitoli in cui ho diviso Frankenstein, 13 capitoli del mio romanzo. Quindi ogni canzone è abbinabile sia a Frankenstein che all'uomo al centro del cerchio. Quindi romanzo. Molti parallelismi con la società contemporanea, in pratica. Assolutamente, assolutamente, perché... perché è una società, insomma, sempre più superficiale, è una società un po' debole dal punto di vista morale e intellettuale. Poi tutto questo diventa rock and roll, perché detta così uno può essere messo in soggezione, no? Dice, ah, chi questo, chissà che palle che ci farà. Invece è un'opera rock con canzoni che peraltro vengono benissimo dal vivo. Sì, con canzoni con delle chitarre che premono, sì, c'è molta che chitarra, sfondano, che sfondano, Enrico, perché sei un rocchettaro, te c'è poco da fare. Beh, io nasco come... hai portato il punk in Italia. Punk che per i casi della vita ha fatto 30 album da solo. Appunto, quindi... A proposito di punk, volevo farti questa domanda che esce un attimino dal tuo ultimo lavoro. Tu, come hai detto, sei nato... quasi punk, perché poi a suo tempo è sottolineato che proprio non era proprio un vero punk. Era particolare. Sì. Trovi qualche affinità con qualche altra musica di adesso nel modo di esprimersi? Oggi sicuramente il punk era stata l'ultima grande rivoluzione di massa, di base della musica negli anni 70. Oggi vedo solo il rap. Ma intanto per un motivo molto semplice, che essendo anche il rap non ricco musicalmente, così come lo era il punk, che nacque con pochi accordi maggiori, i rapper sono costretti a fare dei bei testi. E quindi io vi immagino che i nuovi cantautori verranno da lì. Appunto dal rap? Sì, mi sembra evidente, insomma, perché comunque è un genere di musica che può anche piacere alla discografia, ma che può anche avere dei contenuti, insomma, non sempre avviene, però ci sono casi. Abbiamo dei cantautori comunque che si avvicinano, Caparezza, lo stesso Jovanotti, correggimi esatto, se sbaglio. Per esempio, e come vedi, molti rapper stanno già sfiorando il mondo cantautorale, se non addirittura entrandoci a pieno titolo. Ma il filo rosso che lega l'album di Enrico Ruggeri è sicuramente il rock and roll, il rock, Enrico, al 100%. Sì, il rock in tutte le sue forme. Tutte le sue forme, un po' di blues, anche, però... un po' di prog, leggermente. Sì, ma sai, io quando... io ascolto veramente poco radio, ascolto radio particolari, ecco, se fossi nella vostra zona ascolterei la vostra probabilmente, ma non ascolto le radio top. Ogni tanto lo faccio per 10 giorni per capire cosa non bisogna fare. È lo stesso principio con cui spesso guardo il Festival di Sanremo, cioè mi spiego meglio, non so, io nel 2000 fui tra i primi, forse il primo, a inserire la fisarmonica nella band, la tromba nella band. 4-5 anni dopo guardi Sanremo, 1 su 2 c'aveva la fisarmonica, allora capisci che è il momento di inventarti qualcosa di nuovo. E quindi in questo momento puoi inventare, chiaramente è relativo, perché la musica come dire, elabora ma non inventa, però sicuramente il prog, il rock, determinate atmosfere che oggi non senti in giro sono molto più affascinanti del disco, quello che ti dicono questo va bene perché funziona in radio, ecco. Mamma mia. Per esempio nell'intro dell'album è assolutamente prog, secondo me. Beh sì, è una intro... pochi minuti, ma prog, certamente. Sì, assolutamente. E poi è tipico dei concept album, quella linea musicale, che peraltro è suonata da Elio al flauto, ritorna anche in un paio di momenti durante l'album e finisce con la stessa linea musicale che dà il via alla suite finale, che è insomma un meccanismo mediatico. ispirato dalla musica classica, naturalmente, dove c'era un tema tananana nella quinta di Beethoven, per dire. E, c'era un tema che si sviluppava, poi il prog ha preso questo dalla musica classica. Enrico, 30 anni di carriera, dovremmo chiederti tantissime cose. Entriamo un po' nella musica, nel tuo ultimo CD, e parliamo del singolo che tu hai lanciato per questo CD, che si chiama Diverso dagli altri, che è, sì. Se uno, oltre ad ascoltare la musica, perché so che per te i testi giustamente sono importantissimi, perché devono dire qualcosa, parlaci di questa canzone. Beh, intanto è una canzone che è nata quando io non avevo ancora detto che l'album si sarebbe chiamato Frankenstein, quindi in qualche modo dovevo anticiparne i contenuti. Diverso dagli altri, lo dicevo prima, è una canzone sulla diversità di pensiero e sulla diversità di atteggiamento, e sul fatto che questo è un mondo molto omologato, per cui tutte le volte che fai qualcosa che gli altri non si aspettano vieni guardato con diffidenza. E, peraltro c'è un video che mi è piaciuto molto fare, perché è un video che introduce ancora un altro tema, che è lo smembramento di una persona da parte di un'altra, che è un video dove c'è un pranzo e dove io, che tagliato a metà con un trucco cinematografico, vengo servito su un piatto d'argento, e la parte grottesca di questo video l'ho affidata a Ale Franz, e farei uno spettacolo tra l'altro con loro. Che esatto, poi da cosa nasce cosa, e adesso stiamo scrivendo uno spettacolo assieme che faremo quest'estate, allora, parallelamente al resto del mio tour, insomma. Farò due tournée quest'estate. Poi ne parleremo anche di questa parentesi. Blue Time. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rieccoci in diretta, Enrico. Sì, eccomi. Anche Frankenstein aveva un'ambizione. Beh, il dottore sicuramente aveva quella di resistere, di aiutare l'uomo a ribellarsi alle leggi di Dio e della natura. Aveva l'ambizione di diventare famoso, aveva l'ambizione di lasciare un segno, e si incontra col capitano della nave che lo ospita, che a sua volta aveva l'ambizione di arrivare al Polo Nord con una nave, quindi due uomini che si incontrano tutti e due resi folli dal loro desiderio di sopravvivere a loro stessi. Musicalmente questo è un pezzo pop, possiamo dirlo, Enrico? Un pop con finale rock, però. Sì, la batteria entra nel finale, ci sono molte chitarre, il pop oggi non vuole così tante chitarre, c'è il basso suonato col plettro, insomma c'è una serie di caratteristiche che non lo rendono proprio omologato nel pop. Poi c'è chiaramente il tuo chitarrista da sempre, Luigi Schiavone. Sì, Luigi Schiavone, insomma, che è stato parte integrante di questo disco, perché abbiamo iniziato a lavorarci, come ti dicevo prima, noi due, insomma, poi dopo chiamavamo i musicisti pezzo per pezzo, però gran parte dell'anima di questo disco è sua, si sente, perché insomma è un altro che nasce come chitarrista di un gruppo rock, che erano i Chaos Rock negli anni 70, quindi nei primissimi anni 80, e quindi insomma è una coppia che dura da allora. Ma incidere un disco come si incideva una volta, che emozione ti ha dato? Ma è bella, naturalmente è più faticoso, perché insomma io i testi li curo molto, e quindi c'erano dei momenti che mi sembrava di essere arrivato alla quadratura del cerchio, poi facevi tre passi avanti, due passi indietro, però sai, io ho il mio studio, quindi ho i miei tempi, non avevo nessuna scadenza, e quindi il disco sarebbe uscito quando fosse stato pronto, per cui tutto sommato in tranquillità, insomma. Senti Enrico, ti aspettavi così un grosso successo quasi da subito di questo tuo ultimo lavoro? Che chiave di lettura puoi dare? Evidentemente, insomma, c'è ancora gente che ha voglia di contenuti, ha voglia di rock, ha voglia di cose che non siano quelle che che ti propina la televisione, sono più di quello che può sembrare, per cui sì, l'entrata in classifica, la permanenza in classifica dell'album, le critiche, però sai, sulle critiche me l'aspettavo, che vendesse francamente non ero così convinto che sarebbe entrato in classifica addirittura nei top 10. Io credo, però, insomma, ovviamente la cosa non può che farmi piacere. Io credo che sia proprio anche questo, che siano i contenuti. Te ti concentri molto sui contenuti e io credo che soprattutto la parte giovane questo lo accolga in maniera molto forte. Sì, mi hanno scritto molti ragazzi, insomma, anche ragazzi che vengono ai miei concerti e cantano canzoni che sono state scritte quando loro non erano ancora nati, e questo ovviamente è un motivo di grande soddisfazione. Sì, perché ripeto, c'è tanta gente che i contenuti li vuole e che vuole divertirsi, perché il rock è divertimento, ascoltando anche delle cose che abbiano senso. E la mia battaglia è quella, cioè non è che da una parte c'è la cultura e la cultura è noiosa e dall'altra parte c'è una cosa divertente che per forza è vuota. Si può fare anche cose divertenti che facciano pensare la gente. Questa è la battaglia che io ho condotto sempre, anche nelle cose che faccio in televisione o i libri, divertire dicendo cose intelligenti. Ma il rock mette tutti d'accordo, Enrico, in questo punto? Evidentemente ancora sì. Questa è una cosa molto positiva, secondo me. Ma sì, devo dire di sì, sono molto contento. Io, ragazzi, sto per abbracciarvi perché ho già una macchina in moto qua sotto. Enrico, noi dobbiamo quindi... È stato un vero piacere, quando vengo a suonare dalle vostre parti venite che ci facciamo altre due chiacchiere. Certo, prima del concerto. Ti ringrazio anche perché abbiamo tante curiosità, anche se magari fuori diretta, però è sempre utile a conoscere un po' altri aspetti di Fantastico. Enrico Ruggeri, aspetti musicali intendiamo logicamente, è sempre legato alla musica. Grazie Enrico. Grazie, ciao, Enrico, ragazzi. Un salutone, un abbraccio, ciao, grazie. Ciao.